qui finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. Chiacchiere. 22:52, eccoci in onda sulle frequenze di Onda Rossa. ...87,9 della banda romana e laziale. ...30 gennaio 2013. Abbiamo dimenticato la scarceranda a casa, però stasera non ce ne sarà bisogno, invece il fantasma ce la illustra. A proposito di scarceranda, siete ancora in tempo. Continua l'iniziativa Al Forte per la presentazione della scarceranda 2013. La proiezione, credo, del film è terminata, c'è ora la presentazione del libro e per chi vuole all'osteria. Se mangi e se beve bene, ve lo diciamo io e il fantasma che veniamo appunto da tale sublime esperienza. Ottimi carciofi, ottima cicorietta, le linguine, vabbè te perché pranzo, invece noi che siamo proteinomani ci siamo mangiati le linguine al polpo e uno sformato con le acciughe. Poro polpo. Eppure poro acciughe. Vabbè, dicevamo gli 87,9 della banda romana e laziale. Vi diamo un po' dei contatti della radio: www.ondarossa.info, il sito della radio. Una radio che non campa d'aria, come sapete bene. E che ha bisogno di tutto il vostro sostegno, dei vostri contributi, di ascoltatori, ascoltatrici, compagni e compagne che ne condividono il progetto editoriale e nonché alle volte di mettere mano al portafoglio. Perché, ecco, siete voi che mantenete in vita questa radio. Bella Florida, fantasiosa. Combattiva e tutte le altre cose. Per farlo andate sul sito che dicevamo prima, www.ondarossa.info, c'è la cartella sostieni oltre quella di ascolta la diretta. Diciamo c'è un link apposta, andate su sostieni, troverete lì scritte tutte le modalità con cui sottoscrive per Radio Onda Rossa, il PayPal, le varie iniziative anche di autofinanziamento della radio, le autoproduzioni della radio che servono per finanziare la stessa, e nonché il numero del conto corrente postale 61 80 40 01, da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Lo vedi? Se volete invece contribuire in forma scritta oppure mandare delle comunicazioni alla redazione della radio, la casella di posta elettronica della redazione è ondarossa@ondarossa.info. Diversamente, se volete mandare degli insulti ai sottoscritti, nonché sottoporci quelli che sono i vostri MP3 alla nostra scarsa attenzione, 25 o'clock 25 scritta al numero o'clock@ondarossa.info, oppure fantasma@ondarossa.info. Lo vedi? È tutto, è completo. Che altro vi devo dire? C'è il numero di telefono che stasera, siccome tutti i compagni e le compagne della redazione stanno in quel del Forte, nella vai. Però ho visto qualcuno con la radiolina, Con la radiolina. Sì, sì, era già sintonizzato. Ma si sente al forte. Stavano lì, là sotto. Cioè, con l'antennina, la muovevano. Cercavano il posticino. Quanti favo clock. Così. Ah, poi casomai mettiamo uno spottino di una volta, era carino, con la pulizia che arrivava, vabbè. Lo mettiamo, dai. Mettiamo. Profetico, sì. Che diceva, sentiva la volante con due malviventi, suppongo, cosiddetti. E noi siamo malviventi. Malviventi, eh? Viviamo male. Che dicevano, i guardi, spegni, ma che te sta sentendo? Se ti senti fa un clock, spegni. Scappa. Allora, dicevamo, 0649 1750, non c'è sta... Vediamo. Lo stiamo guardando. Il numero per trillarci oppure chiamarci qui alla radio. Anche se a suon di trilli siamo inflazionati questa sera, perché il banana star forte a magna beve. Questo va da capo, Eccolo qua. We'll be right back. Smorza, smorza, spegnila ljubav rusa. The Opilok non piace mica a tutti. One creed. E allora ci siamo di nuovo in onda. Onda Rossa 2308, dopo esserci ascoltati una lunga traccia dei Public Image Limited e Trilla lo 0649750, non abbiamo anticipato che stasera ci abbiamo un ospite. E che ospite? Un ospite che con la sua presenza questa sera va a riempire questa riempie di presenze, appunto, la radio è già piena. Bello grosso. E ci abbiamo come ospite Alex dei Quarta Luna. Buonasera, buonasera a tutti. Che suona la batteria? Sì, sbaglio. Sì, sì, sì. No, non sbaglio. Quarta Luna, vogliamo dire, vogliamo raccontare un po', magari lo fai, lo vedi Fantasma. Band storica comunque, insomma. Band storica romana. Beh sì, esistiamo dal 94, quindi insomma qualche annetto che giriamo, sì. Dal 94 come Quarta Luna, no? Siamo partiti come Neriene, però era un nome insomma abbastanza imbarazzante. Sempre tutti confondevano, come le Iene, come... Era un nome un po' così ambiguo, tra virgolette, quindi abbiamo cambiato. Non funzionava per niente. Quarta luna, bello pieno. Quarta Luna non funziona lo stesso, però però almeno non era confondibile. Però è durato. Sì, però è durato assolutamente. E che qual è la cosa che volevate evocare appunto con la Quarta Luna? Beh, diciamo, Quarta Luna è un termine latino che significa quarto giorno di luna crescente, e nell'antica Roma era considerato un giorno fortunato, propizio per la semina e per la fertilità. Quindi ci sembrava un nome giusto, perché ogni volta che ci incontravamo per noi era un giorno fortunato, tra virgolette, e fertile dal punto di vista compositivo. Quindi sembrava giusto. È dai. Partito questa roba partito qui. E poi così. Come tutti i nomi o i soprannomi o le cose, insomma, quando uno è, poi rimane. Esatto, uno se lo esatto. Tiene e quello è, sei riconosciuto per essere quello. E assolutamente. E vabbè, salutiamo gli altri tre quarti di luna mancanti stasera. Sì, c'è chi sta a letto, chi sta... Sì, sapevo che ci doveva essere un'altra presenza oltre esatto, la tua. Saluto ma gli altri tre, ragazzi, vabbè. Ex ragazzi. Luciano, Michele e Andrea, BJ, vi saluto. No? Vabbè, Luciano sta all'Aquila, quindi non poteva esserci. Mm-hmm. Andrea invece sta a letto con la febbre probabilmente, quindi sono l'ultimo sopravvissuto. Vabbè, Band storica romana però non ha mai astruciato Radio Onda Rossa. No, in effetti non è la prima volta che quindi, siamo ospiti qui. 94 quindi, oggi, infatti sono finalmente molto contento e molto fiero, assolutamente. 20 anni di latitanza alla fine. Reciproca, però, perché... So. Non ce ne eravamo accorti. E, allora ci abbiamo pronto nel lettore di sinistra, giusto per scaldare un po' l'ambiente. Poi più tardi ci andiamo ad ascoltare un po' di cosette dai Quarta Luna. E ci abbiamo la novità, che è l'ultimo disco dei Voivod, che come si dice a ste parti probabilmente diventerà un tormentone, perché insomma, dato che già è tormentone tutto quello che è passato da parte dei Voivod, da parte tua soprattutto. Insomma, i Voivod ci piacciono. Grandissimi. E quindi ce li andiamo ad ascoltare con il loro ultimo prodotto, che è Target Earth, Obiettivo Terra. Questa è la sesta traccia, Resistenza. Buon ascolto. Walk out, no place I'm free. Walk out this Di nuovo in onda Radio Onda Rossa, 23:19 minuti primi. Insomma, questo era il primo ascolto di Target Earth, dell'ultimo disco dei Void, uscito pochi giorni fa. Proprio 2013, diciamo. Proprio 2013. Primizia. E niente, questo era il primo ascolto, vi tormenteremo nelle prossime settimane, sempre con i Void. Ci sono piaciuti da questo primo ascolto. Un sound che va a ripescare dalla vecchia... un po'... cioè, nel senso buono, un frullato del classico che è dei Voivod. Quindi, per chi li conosce, un po' di Angel Rat, questo sound inizio anni 90, comunque sfuriate jazz, ci piacciono e ce li ascolteremo in futuro. E invece, siccome ci abbiamo pronto già sull'altro lettore di Quarta Luna, volevamo un po' introdurre appunto poi la storia di Quarta Luna, che come potete, tra l'altro ci sono dei riferimenti internet abbastanza semplici da trovare, insomma, riguardo a loro, poi casomai ce li darà anche in maniera così diretta. Dicevamo, una band che data già quasi 20 anni, che però diciamo un po' a corrente alternata, diciamo ci ha avuto il suo momento, insomma ci racconti un po' la vicenda, così un riassunto in 3 minuti di 20 anni. Beh, molto semplice, noi nati nel 94, abbiamo insomma fatto in pochi anni un paio di demo e un paio di album, e fino al 2005 diciamo abbiamo viaggiato a buoni ritmi, poi ci siamo presi una bella pausa di riflessione, un po' per vicende di vita, un po' perché avevamo altri progetti paralleli da portare avanti, e quindi dopo 7 anni di pausa siamo tornati con questo nuovo disco. Nel 2011? Esattamente. E siamo molto soddisfatti, insomma abbiamo avuto un buon feedback. Ma pensavate comunque che nel 2005 cioè che la storia più o meno andava a scemare così, No, oppure guarda, sarà un po' una novità. È stato un percorso naturale, è stata una cosa molto... Un rallentare i ritmi, insomma. Esatto, esatto. Abbiamo rallentato un po' i ritmi, ce la siamo presa comoda e poi a un certo punto è tornata la voglia. Diciamo, abbiamo deciso di mettere sul disco delle canzoni che avevamo comunque composto e ci dispiaceva lasciarle nel cassetto, quindi abbiamo deciso di registrarle e fondamentalmente di regalare questo disco alle persone che ci hanno sempre seguito, tant'è vero che è in download gratuito sul nostro sito, quindi perfetto, è un regalo che abbiamo fatto a noi stessi e alle persone che ci hanno sempre seguito. E invece, per parlare dei progetti paralleli, penso che ce n'è uno per tutti e quattro i componenti della formazione, no? Sì, sì. Vabbè, poi magari ne parliamo pieni dopo, però rimaniamo nell'ambito oppure sono pure delle variazioni abbastanza ampie? No, grosso modo rimaniamo nell'ambito, anche perché non saremmo capaci a suonare altre cose probabilmente. Okay, benissimo. E quindi che ci abbiamo pronto nel lettore, quindi dell'ultimo disco che... Sì, esatto, abbiamo il singolo dell'ultimo disco. Come si chiama l'ultimo disco? The Last Day of an Ordinary Life. Mm-hmm. È uscito nel 2011, appunto. E questa canzone è Unsafe Prison, di cui abbiamo anche il video su YouTube, potete trovarlo, vedrete le nostre belle facce in azione. E ce lo ascoltiamo? Eh sì, direi di sì. Quarta luna. I'm the one that Starting to search to no avail. Light that shines behind the veil. Trying to find it. And all around us everywhere is all that we could ever share. If only we could see it. Believe there's truth that's beyond me. Life ever changing, weaving destiny. It feels like I'm flying above. Days, shadows fading in the haze. What I couldn't see. No, I said my hands were tied. Turned the change and now I find free for the first time. Feel so close. Bye. E si era creato il silenzio qua, tutti incuffiati a ascoltare gli Anathema. E questo era il pezzo Flying del loro A Natural Disaster. E cioè a me non so, vabbè, a parte che mi emoziono. Vabbè, diciamo di chi è la proposta musicale, chi è che sta curando la scaletta in questo momento. E questa era la proposta di Alex, il pezzo che ci ha suggerito dopo il pezzo di Quartaluna. E perché? Perché gli Anathema in questo periodo sono una delle mie band preferite in assoluto, e perché li trovo assolutamente emozionanti. Li ho visti diverse volte dal vivo, e a parte la forza che hanno nelle canzoni, hanno un rapporto col pubblico incredibile, c'è uno scambio totale, sono una band favolosa. Cioè, ascoltandoli, vedendoli dal vivo, riconosci la sincerità delle loro emozioni, di come appunto riescono ad essere sinceri. Assolutamente, e sì, assolutamente credibili in quello che loro vogliono esprimere. E guarda, glielo leggi proprio negli occhi quando stanno sul palco, li vedi lì sopra felici, veramente vedi la gioia dello scambio, è uno scambio reciproco tra il pubblico e loro. È veramente emozionante vederli al vivo sul palco. No, poi mi piaceva un po' immaginare, giocare un po' sul titolo del pezzo, che era Flying, quindi volando, e eravamo tutti e tre assorti. Vabbè, ci facevano volare, insomma. Ci facevano volare da qualche emozioni. Parte. Hanno fatto, quando uno decide, ecco, hai raggiunto lo scopo, quando appunto in qualche maniera riesci a creare quello scambio, come diceva lui, e quindi a trasmettere quello. Facendo un passetto indietro invece, ritornando ai Quartaluna e ritornando pure a noi stessi, che appunto dicevamo all'inizio, veniamo dal Forte, dove c'era la presentazione di Scarceranda a sostegno di Scarceranda come ogni ultimo mercoledì del mese, diciamo noi tra virgolette purtroppo, perché come stasera ci tocca scappare a un certo punto per venire a trasmettere. Diciamo invece di Quartaluna abbiamo mandato in onda Unsane Prison, quindi ritornando al tema del carcere. Guarda caso stasera sembrava preparata la cosa, invece ci ha proposto Alex spontaneamente. Ci ha proposto spontaneamente senza dirci niente prima, e tra l'altro guarda caso lui è pure l'autore del testo. Cioè, ma guarda un po'. No, per davvero, perché sì, poi sì. Se no uno dice ecco, cosa sono preparata. Se l'erano preparata da mesi. È venuta a cecio invece, proprio così. Sì, tutto molto casuale, sono belle queste connessioni. Esatto, Unsane in Prison, cioè questa folle prigione, insomma. No, è unsafe. Insicura, quindi. Insicura prigione. È riferito a una prigione reale o a una prigione più psicologica, insomma, e virtuale? Guarda, è un po' un testo autobiografico e diciamo che è relativo a un periodo della mia vita in cui non mi sentivo più sicuro neanche dentro casa mia. Quindi in realtà la prigione insicura era proprio la mia casa, perché in quel periodo era stata un po' violata da una persona che si era fatta una copia delle chiavi ed entrava di nascosto dentro casa mia. Mm-hmm. E quindi mi sentivo insicuro tra le mura, in cui invece avrei dovuto sentirmi proprio più sicuro che mai, quindi dove insomma, uno c'ha la propria domesticità, insomma. Esatto, la propria, esatto, quindi è stato un periodo intimità piuttosto spiacevole. E poi mi piace ricordare sempre questa connessione col Forte, perché diciamo il primo concerto dopo tanti anni l'abbiamo proprio fatto al Forte circa un anno fa, è stato un po' il nostro ritorno, per noi è un posto molto importante, lì avevamo iniziato. Lì è nel 94, mm-hmm, abbiamo fatto il nostro primo concerto lì, e tornare lì per noi è stato speciale, un posto molto importante per noi. Poi viviamo, no, a Centocelle, in quel quartiere, ci passare pure del tempo, insomma, assolutamente, quindi è un posto veramente importante nelle nostre vite, quindi siamo felici di aver ricominciato lì. Ok, quindi vedi come si intrecciano, e forse niente a caso. niente accade. No, e vabbè, su questo insomma non c'è dubbio, poi insomma comunque le connessioni poi ritornano a notarsi. Prima che invece continuiamo, cioè queste, gli anatema sotto purtroppo hanno questo fascino ipnotico per cui li dobbiamo togliere. In qualche maniera dobbiamo fare una violenza contro di noi e contro, per cui mi dovete preparare un disco, ecco qua qual era il punto. E pensando a quello che abbiamo detto finora, perché se no altrimenti metto i tipo e spacco completamente l'atmosfera che abbiamo creato. Ma siamo prontissimi, eh? Sì, perché sì. Il prossimo pezzo che andiamo a mettere è di un gruppetto che ogni tanto capita, mi ricorda un po' il Capodanno, eh? C'è un po', vabbè, ritorna questa cosa. E il pezzo che andiamo a mettere è dall'ultimo disco dei Monster Magnet, che è Mastermind. E ultimo disco di quando? Del 2010. Quindi da Mastermind ci andiamo ad ascoltare la decima traccia, che è When the Planes Fall from the Sky. Ok, eccola qua. We'll be right back. allora questi erano i più coatti che ci stanno in circolazione, Dave Widorf e compagni, Monster Magnet. Questo è il pezzo più sabbatiano del disco, eh? Perché l'altro è più coatti ancora. L'altro è ancora più coatti. E niente, stavamo ricordando con Alex appunto un concerto dei Monster Magnet all'Horus Club. Quando c'era ancora? Quando l'Horus. C'era ancora l'Horus Club. E insomma, un po' nostalgici, che volete fare? Tra fantasmi dei 35.000 anni e siamo nostalgici così. E ritorniamo a Bomba con un altro pezzo dei Quartaluna. Da che disco? Dal nostro secondo disco, da D'Incanto. Quando è uscito D'Incanto? È uscito nel 2003. E questo è un pezzo... 10 anni, tondi tondi. Mamma mia, sì, 10 anni fa proprio. Quante cose cambiano in 10 anni? Guarda, alla fine non cambiano così tanto. Tutto sommato le persone che ho intorno, gli amici, eccetera, sono sempre gli stessi. I gusti, grosso modo, sono sempre gli stessi. Grosso modo faccio sempre la stessa vita. Quindi non è che li sento tanto questi 10 anni. E che pezzo ci andiamo ad ascoltare da D'Incanto? Andiamo a sentire Dictator Media, che era un pezzo che all'epoca... Le cose non cambiano. Ecco. Esatto. Noi speravamo in un certo senso che potessero cambiare le cose, ma a 10 anni di distanza purtroppo... Ristavo un'altra volta in campagna elettorale e le facce più o meno... E potete immaginare, anche insomma... Anche peggio, forse. Noi abbiamo un'altra volta la Democrazia Cristiana, esatto, in combatto. Forse peggio. E questa canzone era dedicata all'epoca al dittatore mediatico per eccellenza che c'è in Italia, ovvero Berlusconi, e purtroppo sta ancora lì. Va bene, a Radio Onda Rossa, Dictator Media, Quartaluna, 25 o'clock, dai. Interrompiamo, sì. c'è un trillo e si rimanda da capio. Sì, evidentemente il tema è ancora scontante, lo diciamo spesso, che palle, siamo di nuovo in campagna elettorale e vabbè, e quindi Dictator Media da capo. We'll be right back. E allora questo era il 2003, lavoro che si intitolava Dictator Media, il disco d'Incanto. No, d'Incanto. Lavoro del 2003 per Quartaluna, e commentavamo prima come le differenze un po' di sound tra l'oggi e l'allora, di come forse questo, diciamo, forse il momento topico per la band fosse il disco più compiuto, più sì, definito. Diciamo che personalmente d'Incanto è il mio disco preferito tra i tre che abbiamo fatto. Era proprio il periodo in cui eravamo più in forma, più rodati, suonavamo tantissimo in giro, quindi è un disco di cui vado tuttora orgoglioso. E poi vabbè, ci sono diverse differenze stilistiche con l'ultimo. Prima di tutto, con l'ultimo disco abbiamo optato per un cantato in inglese, e poi diciamo per un genere un pizzico più diretto, forse un po' più squisitamente metal. Ma anche perché poi lo andiamo a dire, tutti e quattro i componenti dei Quartaluna, ognuno ha un suo progetto sì, più o meno personale negli anni. Ricordiamo BJ con i Doom Racer, tu hai avuto altri progetti nel corso degli anni. Esatto, Bella Donna, Graal, insomma. Tutti siamo stati un po', Michele con gli Alligators, insomma siamo stati tutti un po'... Avete fatto il vostro percorso rock and roll, metal, le vostre esplorazioni sonore. E sicuramente queste influenze le abbiamo un po' portate anche nell'ultimo disco di Quartaluna, assolutamente. Una cosa un po', cioè da quello che ho sentito io, un sound più diretto, più classico, meno sperimentale di quello che era d'Incanto. Sì, probabilmente sì. Oltretutto l'abbiamo composto un po' più di getto, diciamo i pezzi ci sono venuti un po' più spontaneamente, senza troppi ragionamenti, ecco. Era ormai 5-6 anni che non producevate qualcosa, quindi esatto, venivano, esatto. Insomma, uno sì, ci ha avuto tempo per pensarci. Abbiamo composto il disco molto velocemente, ecco. E a proposito di cose veloci, di cose dirette, ricordando un po' pure le nostre radici, che sono quelle, ci andiamo ad ascoltare un pezzo da un discone che è The New Order dei Testament. Il pezzo è Disciples of the Watch. Yeah. Allora, e mentre noi giochiamo e scherziamo, vi rammentiamo che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 25 o'clock 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, che ancora ce l'abbiamo fatta pure per questa notte e abbiamo rubato un'ora e ne ruberemo anche di più ai ritmi di consumo, del consumo e della produzione. Che avremmo voluto vedere e sentire. Avevo tolto il master. Dicevamo, avremmo voluto vedere e sentire quando io e il fantasma un'oretta e mezza fa, un po' di più, vaneggiavamo in quel dell'Osteria del Forte. A proposito di... No, io comunque, cioè, vabbè, detta così spontanea, vabbè, sbaglierò, quello che volete. E fatevi sentire, scrivete, i contatti ce l'avete, fatevi sentire. A Trillà siete abbastanza capaci. Siete bravissimi, però... Però quello è così, è emozionale, fateci sapere che volete. A parte quello, a parte per 25 o'clock... Comunque la radio sta qua, A parte il 25 o'clock, appunto. Ricordiamo l'email della radio. Ondarossa@ondarossa.info per la redazione e tutto quanto. Ci arriva un sacco di roba, pubblicità, cose. Non mandateci spam, cose inutili. Mandateci quello che... Raccontateci di voi. Di voi. Esatto. Di quello che soffrite, di quello che gioite. Il numero, ma fatevi sentire. Fatevi sentire, perché qui tocca da se, da fa. Perché le cose, come le diceva, cose, sì. Cioè, non è che a lamentarsi, insomma, no? Se fa presto al bar, quello sì, lo fai, sì, sì, lo fai un po' i propositi tra un cappuccino e un cornetto. Famo sta cosa, famo alla romana, facciamo questa cosa, dobbiamo fare questa soffro cosa. Soffro per questo, gioisco per questo. Esatto. Cioè, voglio più questo, voglio meno quello, anzi non lo voglio per niente. Comunque, sbagliando, dicendo le cose qui giuste, chiamano. Dovete contattare. Era il trillo. Il trillo so bravi. Ricordiamo che la radio Family, è vostra. La radio è vostra. Sì. Vabbè, questo è allora, un pensiero estemporaneo. Con Alex, che appunto la radio è vostra, sta qui e manda dischi e ci racconta della vicenda, insomma, che lo riguarda e li riguarda come Quarta Luna. Dicevamo prima, mi era venuta in mente prima una roba mentre parlavate, appunto, riguardo. Sì, cioè, ce la dico sta al telefono. No, questa è banana. È banana che è finito scarcerando. No, dicevamo, ascoltavo prima di quel discorso che facevamo riguardo a come cambiano, non cambiano le cose, insomma. E al fatto, appunto, ma ancora prima fuori onda, del fatto che la difficoltà alle volte di intercettare il momento giusto, l'onda giusta, il piacere di chi ascolta, anche certi schemi, certi stereotipi che si creano fra il metallaro, lo psichedelico, l'amante, quello più intellettuale, l'amante del progressive, eccetera, eccetera. Sì. Vi siete sentiti i progetti paralleli, eccetera, eccetera. Quindi un quadro abbastanza complesso e complicato. Ti senti, vi sentite in linea coi tempi, indietro coi tempi, nel senso che in finale tutto quello che è più bello è relegato in un'età dell'oro. Confinata fra i mostri sacri, oppure troppo avanti, per cui dice sì, vabbè, alla fine noi facciamo delle cose fighissime, non ci capiscono perché stiamo dopo 5 anni le fanno tutti, insomma. No, vabbè, diciamo che o nessuna sono, sempre delle sono sempre dell'opinione che se cioè, dire che non siamo capiti è un po' sbagliato, sai, vuol dire che non ci siamo fatti capire noi per certi versi, però diciamo che come Quarta Luna credo che ci siamo sempre sentiti piuttosto fieramente fuori moda, sempre comunque un po' fuori luogo e fuori moda. Quando abbiamo iniziato facevamo un genere piuttosto particolare, un metal molto contaminato, eravamo molto liberi, oltretutto col cantato in italiano, e all'epoca era una cosa non molto accettata. L'italiano non va bene con il tipo di musica che fate, diciamo, non piacevamo abbastanza ai metallari perché cantavamo in italiano, oltretutto con testi piuttosto intimi, ricercati, eccetera. Chi ascoltava prog invece diceva che eravamo un po' troppo tosti e un po' troppo poco tecnici. Quindi dai, eravamo sempre un po' fuori per scontentare, riesce a scontentare tutti. Esattamente, quindi siamo sempre stati bravissimi a scontentare tutti. Oggi invece diciamo che abbiamo molti più apprezzamenti, tra virgolette, viene molto apprezzato il lavoro che abbiamo fatto in passato. Certo, magari con 15 anni di ritardo, ma... E quindi forse la terza che ho detto, cioè stare un pochetto avanti. Stavamo un pochetto avanti, adesso forse siamo rimasti indietro. Non lo so. Non si riesce a sincronizzare, insomma, esatto, con la. Non siamo mai al passo. Come un cornetto con la marmellata d'alici. Esatto. Paragone azzeccatissimo. Bene, adesso vi devo rimettere in mezzo perché nel frattempo continuano ad andare, però io qui sto alle manovre e devo manovrare. Va bene, va bene. Se non vi metto i dì, no, ce l'abbiamo pronto. Vi incombono i dì. Visto che insomma, con gli ultimi due pezzi, quindi Testament e l'ultimo pezzo... Metto i dì? No, non sia mai. E ci siamo andati ad ascoltare un altro pezzo da Matusalemme, che è no, Paradise Lost. Paradise Lost da Icon del, oddio, che è 93? Ora ti dico, non c'è scritto, comunque sì, sarà sì, quegli sì, anni, sarà sicuramente, modo. No? E ci andiamo ad ascoltare una cosa nuova, che nuova non è. Che andiamo a mettere, traccia 1, 2, loro 3 a casaccio. Sono i Graveyard. Graveyard. Traccia 1. Traccia 1, aspetta. An Industry andiamo... of Murder. Eccola qua. Myself, I got nobody left to call a friend. I wanna drink again. Whining, dining, crying, lying, denying, pouring out. The gold tooth in a devil's smile. I walked the wide road a thousand times. He never led me anywhere. Ain't no light in my tunnel, but the gold tooth in the devil's smile. I walked the wide road a thousand times. He never led me anywhere. Coming round the bend, I wanna drink again. Wheeling, dealing, stealing, cheating, beating, burning all my bridges. I ain't got no pride. These trembling hands got nothing to defend. I wanna drink again. I hear the lonesome sound of the guitar. It's coming through the wind. The bottle keeps on sliding, weeping at my blues. I'm bringing it to land. Ain't no lie. We'll be right back. Ma perché è finita? No, era un finale molto molto tenue. Il silenzio rientrava nella traccia. No, ma diciamolo però, c'ho la stecchetta degli occhiali che mi... Quando è che te decidi a ricomprarti gli occhiali, che sono mesi che stai così? Fammi sta domanda. Mi volevo... Professor, cioè, professor Fefo, quando si ricomprerà gli occhiali nuovi? Che c'è anche mesi che visto che la stecchetta... So pur chiaro. Sei pur chiaro. Però l'ascoltatrice, l'ascoltatore ne risente. Ma non ho capito perché non continua la traccia, perché si è fermato? Niente, sono fatti così. Ecco, vabbè. Molto lungo. Comunque, niente, ci siamo ascoltati il miglior British rock dalla Svezia. Dalla Svezia, sì. E loro sono i Graveyard, dal loro ultimo disco che ripropone un sound nuovissimo settantiano. Sì, sì. È pieno di ossimoli, insomma, una roba piena di contraddizioni. Ci chiedevamo appunto questo, come mai questi svedesi, forse hanno bisogno di sporco, tutti precisini, tutti con i loro mobiletti, tutto perfetto, precisi, sempre no? A posto, le camere ammobiliate, sì, da sta cazzo di IKEA, certo, per forza, un sacco di soldi, servizi sociali da paura che funzionano, cioè, bene. Lo svedese sbroccherà mai la mattina che deve andare al lavoro alla fermata della metro? No, è impossibile. No, impossibile. No. Non si può arrabbiare. Cioè, praticamente è proprio il problema questo. Cioè, uno a un certo punto nella vita si deve... Cioè, noi siamo dei fortunati. La conclusione è questa. Qui siamo fortunatissimi. Il gusto della vita. No, perché ci possiamo incazzare quando vogliamo. Sì, sì, sì. Cioè... Aspetta, che nel frattempo mi chiamo a base. Hanno mai evitato di fare uno scontrino? Onde evitare che le nostre parole nella storia della Repubblica della Svezia hanno mai evitato di fare uno scontrino? No, niente. Credo di no. Niente. Come si incazza sto svedese? Non c'ha motivi. Cioè, come gli eroe lo svedese? La conclusione era quella che a un certo punto vai a suonare le cose più estreme da un certo punto di vista. Eh sì, va sul metal, va sul rock. E da un altro punto di vista le fa con una perizia da svedese, però con una sporcizia necessaria a, diciamo, mitigare tutta questa perfezione che altrimenti sarebbe veramente infernale. O paradisiaca. Guarda che nel frattempo che arriva, cioè, dalla Svezia. Sì, qui trillano, Trillano, trillano anche quando balbettiamo, una cosa incredibile. No, perché m'ero e niente, no. Che salto strano, Cioè sì, dalla Svezia del British rock dei Graveyard. Alex, sì, ci propone una vecchia conoscenza di queste parti. Ma sono che abbiamo anche consumato. Loro, Questa è un'imitazione svedese. Sì, questa è un'imitazione svedese. Forse sarebbe il consorzio svedese qualcosa. Indipendente. No, però certo, sì, avremmo bisogno probabilmente di un'imitazione svedese del consorzio sonato indipendenti, vista così la non brillantissima fine del cantante, perlomeno, insomma, Finaccia, del consorzio dei suonatori indipendenti, Giovanni Lindo Ferretti, le sue scelte più che discutibili, però insomma noi ricordiamo volentieri questa roba qui, la mandiamo da capo e nel frattempo ci prepariamo per il dopo. Potente dominio che sovrasta efficienza di netto.

compagni, spesso a prezzo di guerre sanguinose contro altri signori altrettanto corrotti e altrettanto rapaci. La parola modernità sulle sue labbra è grottesca. Lei è un uomo del Medioevo. L'onorevole Castri si è battuto con tenacia e con vigore, ma ha perso. Queste elezioni dimostrano dunque che la lotta politica, quando è aperta, leale, democratica, rappresenta il fondamento della nostra società e la garanzia della possibile alternanza di uomini e di partiti. La secca sconfitta delle opposizioni ci rende tutti più sereni. Abbiamo partecipato e ora torniamo a lavorare, onestamente. In questo momento il mio pensiero va a due persone. All'amico Polline, la cui elezione rappresenta il primo passo verso il ristabilimento della verità, e al mio maestro di vita e di lotta politica, Sebastiano Tramonti, che in queste ore combatte una battaglia decisiva sotto una tenda d'ossigeno, tradito da un cuore che per anni ha battuto con troppo amore e troppa passione per la gente, per il partito, per lo Stato. Ringrazio gli elettori che hanno espresso il loro voto liberamente, senza dar credito al qualunquismo dilagante e allo scandalismo di un giornale che poco fa è stato raggiunto da un'ingiunzione fallimentare e che si avvia a chiudere i battenti per sempre. Vorrei aggiungere un'ultima cosa. L'economia italiana tira. La lira è in netta ascesa su tutti i mercati. La locomotiva Italia ha smesso di essere un trenino a vapore e corre veloce verso il 2000. Bisogna però spazzare via coloro che si comportano come quegli antichi signori feudali il cui unico scopo era di estendere il proprio dominio, anche a costo di guerre sanguinose. Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Attention, attention, anda, pasnia, 3, 2, 1... Dopo cotanta Svezia, ci siamo andati ad ascoltare un pezzo dei Buffalo Grills romani, più o meno. Questo era dal loro ultimo... No, che sono fissa con gli ultimi... No, sono ultimi loro. Sono gli ultimi, no, gli non ultimi. So se sono proprio d'accordo. Vabbè, forse sono d'accordo, siamo gli ultimi. Ma no, gli fa piacere, sì, essere gli fa ultimi. Piacere, sì. E era del loro Grind Canyon del 2010. E gruppo di Roma. Quando è che leggiamo i testi? I testi dei Buffalo Grills. Recitiamo i testi di Buffalo Grills, sì, e di Paul Chain. Un'interpretazione, una cosa... Sì. Ma i testi di Buffalo Grills sono praticamente menù di ricette di carne di preistoriche. Carne preistorica, sì. Carne preistorica. E, invece i testi di Paul Chain trattano di argomenti piuttosto delicati, insomma. Delicatissimi. Niente, il senso dei testi di Paul Chain forse non li capisce neanche lui. Nemmeno lui. No, sono una sfida. Però sono cose molto... cioè che hanno bisogno di una certa sensibilità poi nell'interpretazione. Sensibilità, sì. Quindi anche nella recitazione. Sensibilità mentale proprio. E nel frattempo che trilla posso salutare Giovanni. Come no? Giovanni Avvocato. Beh. Vedi chi ci ascolta, mica intellettuali, gente di una certa levatura, mica sugli avvocati, no, quello che succede sì, al no, giorno lo so, d'oggi, no. Lo so che non hai avuto buone avventure. No, ma con la categoria, il mio migliore amico in questi tempi così brutti fece vertenza per una questione di lavoro. Sì. Si rivolse ad un avvocato, ad un legale in modo sprovveduto, andò da questo legale. Il legale curò la causa, perorò la sua causa. E poi questo mio migliore amico scoprì che questo avvocato stava in combutta con diciamo la controparte. E quindi c'era stato un inizio di lotta, forse spicciola, forse no. Vabbè. C'è stato un tentativo di terra, luce e vino. Sì. E questo, insomma... Vabbè, cose che accadono. E vabbè, Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, 0041, ormai deliriamo completamente. Sì. Rubiamo il tempo dai ritmi della produzione e del consumo, ma onestamente non sappiamo cosa farci. Di questo tempo rubato ci avanza per cui deliriamo. lo 0649750 continua a trillare, perché forse... appunto più deliriamo più quello trilla. Sono contenti. Sono contenti. E quindi alternandoci senza senso tra pezzi di grind, pezzi di rock svedese, e adesso e con Alex Basito. Alex Basito terrorizzato. Io ormai non so più che pesci prendere. Avremo qualche consiglio. E ci andiamo ad ascoltare questo pezzo che già va in sottofondo. Forse mai passato nella storia di Radio Onda Rossa, i Bathory. Non lo so. Il pezzo potrebbe è essere Ring of Gold. Vai. Insomma, stiamo in piena svarionata prog in onore di qualcuno che non esiste in radio. No, non esistono, però esistono i componenti, cioè il buon Mimmo e Null Pointer. E Null Pointer, non importa, che hanno lasciato tracce indelebili ovunque del loro amore per il prog. Vabbè. Bah, si legge qua in giro il prog. Sì, è poi bello. Niente, fanno anche delle sortite sull'automatico, certo. Introducendo praticamente delle scalette monotematiche. Questi prog terrorist. E niente, ci siamo andati ad ascoltare questi fricchettoni dei Bathory con la loro Ring of Gold. Perché noi siamo fricchettoni dentro? Ma dentro però, fuori punk. Fuori punk, dentro fuori punk. Fricchettoni. De notte fricchettoni, del giorno punk o viceversa. De giorno punk. De giorno punk. De notte fricchettoni. E continuiamo con questo filone di risalite anni 90, fricchettone, così. Ci andiamo ad ascoltare un dischetto nuovo, 94, per noi è nuovo, no? Sì. E diciamo appunto con Alex prima, scegliendo i dischi per la serata, ti sei trovato a scegliere un po'. Dici, porto un po' di roba, no, quelle cose vecchie non le porto, magari Sabbath, roba così, ti sembrano, esatto, vecchie, no, e poi andavi a scegliere classiche. Le cose nuove che risalivano comunque a inizio agli anni 90. Esatto. Beh, perché poi dopo è finito tutto, è morto tutto, basta. Finita negli anni 90 la musica. Ma magari dicono le stesse cose i vecchi sessantenni, no? Dopo il 74, i dischi dopo il 74. Manchi i pischelli dei 22 anni, dicono no, dopo il 2008 non ci sarà più niente. Che tristezza, guarda, veramente. Ognuno ha i suoi confini, però le sue delimitazioni. Dopo il secondo dei Mobbi, niente, alla fine. Cosa hai preparato? Dai, facciamo quasi i seri. Il prossimo pezzo è da un dischetto decente, che è Wild Honey. Passabile. E sempre questi metallari che a un certo punto si riscoprono fricchettoni e fanno il disco. Sempre svedesi, poi, o sbaglio? Oh, stasera questa cosa mi prova. Cioè, un monopolio. Sì. Però sì, potrebbe, perché ci stiamo avvicinando basta la Svezia, a una no, serie veramente. Di riletture, per cui potrebbe essere che febbraio basta. È solo Svezia. Solo Svezia, cioè, passiamo a qualcosa del profondo sud. Possiamo a fine punto. Gennaio, potrebbe essere che tutto febbraio, niente, solo Scandinavia. Cioè, porta inverno. Forse cioè, si intrufolano proprio nella nostra mente. Sì, sì, sì, ma sì, magari sì. In Svezia si stanno sentendo qualcosa di italiano, che ne sai? Mm. No, vabbè, mi sa di no. Pino Daniele nelle Radio Onda Corsa di Svezia con Pino Daniele. Comunque ci ascoltavano in Svezia. Sì, arrivarono sì delle mail e te credo dei radioamatori. Attraverso lo streaming. No. Esiste proprio un per fenomeno. Sentire musica svedese, per sentire musica svedese in Svezia ascoltano Radio Onda Rossa. Ascoltavano Radio Onda Rossa. Sono preoccupato di tutto ciò. Comunque ci ascoltiamo i Tiamat dal loro Wild Honey. Thank you. cazzo. E sul finire ancora in sottofondo il pezzo dei Tiamat. E siamo giunti a mezzanotte 56 qui a Radio Onda Rossa 87.9 MHz di frequenza della banda romana laziale. Questo è 25 O'Clock, un collettivo di sciagurati, di sciroccati. Di freak punk che farebbero meglio a fare altro, però forse questa è la cosa che ci riesce meglio, quindi pensate l'altro. Vabbè, in pieno stile punk faremo meglio a fare altro, faremo ecco. Meglio a fare altro, ma probabilmente non siamo capaci di fare null'altro che siamo piccoli ancora dobbiamo trovare la nostra vocazione. Questo è il danno minore, dai, mettiamolo così. E va bene, quindi ricordiamo, siamo stati in compagnia di Alex. Ancora non è scappato. Non sono andato via ancora. Il più grande quarto di luna. Sì, il quarto di mai bue. Conosciuto. dei quarta luna, appunto. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Proprio una... loro, sì. Oh. Ma che davvero? Trillano. A mezzanotte 58, sì, ancora trillano. Che trillano. Sarà il banana che sta attorno a casa. Sarà il banana. Si sarà sbagliato. No, forse gli è rimasto. Gli è partita la chiamata. Un'ora il banana. E ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo dall'ultimo disco dei Quarta Luna che si intitola The Best Day. The Best Day. Il miglior giorno per cosa? Ma per fare qualsiasi cosa, in questo caso in particolare il miglior giorno, il giorno ideale per andarsene, salutare tutti e prendere un'altra strada. Beh, come pezzo di saluto ci siamo. Oh, vogliamo ricordare un po' i contatti di Quarta Luna se volete approfondire i vostri ascolti. Dunque, potete trovarci su tutti i celebri social network, quindi su Facebook, su MySpace, poi abbiamo il sito ufficiale www.quartaluna.com da cui potete scaricare gratuitamente l'ultimo album, quindi insomma visitateci, veniteci a trovare e prossimamente faremo un live, una rarità, visto che ne facciamo uno o due all'anno, insomma... Il 12 aprile veniteci a trovare, poi troverete pubblicità e spam e quant'altro sui vari siti. E va bene, allora ci andiamo ad ascoltare questo brano di Quarta Luna, The Best Day. Yeah. Gut Feeling, il genio di Brian Eno vivo. Prorompe il lato punk. Twenty-five o'clock, l'una e 07. La Radio Onda Rossa vi salutiamo. Non prima però di avervi ricordato quelli che sono gli appuntamenti che una radio di attivista o militante come è Radio Onda Rossa, una radio di parte, non può mancare di ricordarvi. Manifestazione Roma 2 febbraio, partenza alle ore 14 da Piazzale Squilino da parte del coordinamento nazionale della scuola. Scuola pubblica, sanità, beni comuni di tutti, tutte, per tutti e tutte. E per chiedere il rifinanziamento della scuola pubblica statale, l'assunzione dei precari a tempo indeterminato, il blocco dei progetti di privatizzazione e aziendalizzazione, la disdetta del patto della, sulla produttività, l'abrogazione dell'articolo 1,149 della legge di stabilità. Difendiamo i nostri diritti contro le politiche di austerità e appunto. Roma 2 febbraio, partenza alle ore 14 a Piazzale Esquilino, manifestazione. E invece ve lo anticipiamo, poi magari la prossima settimana ne andremo anche, la prossima settimana, ma anche ascoltando la radio ne avrete modo di sentirne parlare diffusamente, magari con anche le parole dei diretti interessati. 15 ottobre del 2011, complici e solidali. Recita il manifesto di indizione del corteo nazionale a Teramo del 9 febbraio 2013. Quindi fra due settimane, il sabato di non quello prossimo, ma quello dopo ancora. Per esprimere la massima solidarietà a tutti i condannati, gli arrestati e gli inquisiti per i fatti del 15 ottobre 2011, per rispondere in maniera forte ed unitaria alla repressione che ogni giorno colpisce chi ha la forza e il coraggio di non abbassare la testa e si ribella alla storia di cose attuali, e per lanciare la battaglia contro il codice Rocco ed in particolare contro il reato di devastazione e saccheggio e tutti quelle leggi di forza alle quali ai singoli questioni viene garantito il potere di limitare in maniera del tutto discrezionale e priva di controllo la libertà individuale attraverso l'emissione di fogli di via, avvisi orari e misure di prevenzione generali. Codice Rocco di epoca fascista. Con tutto questo noi andiamo a terminare, salutiamo chi ci è stato vicino questa notte e noi invece andiamo ad abbracciare tutte e tutti coloro che ci ascoltano nelle condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, gli arresti domiciliari, la clandestinità, i famigerati CIE. E non so se Alex e il buon fantasma vogliono aggiungere qualcosa a questi saluti conclusivi. E niente, grazie a tutte e tutti di averci sopportato nelle nostre svarionate, nei nostri deliri settimanali. Notturni. Sono pochi, sono tanti, non lo sappiamo, però insomma. Sì, io vi ringrazio per avermi ospitato, siete stati veramente gentili. Beh, che dire, a presto, visto che in 20 anni le apparizioni sì, insomma, sono state rate. poi complimenti per la scelta della birra, perché okay, la mia marca preferita, non fantasma. Faccio pubblicità, ma insomma è il fantasma. Quella è la comunque una, vabbè. Non parliamo mai della compagna che ci accompagna tutte le sere. Ma da sé. La compagna lo sai, silenziosa. Lo sai che una volta feci una confessione agli ascoltatori, visto che non mi piace la birra. No, stavo male. Sono venuto a trasmettere, stavo male e per la prima volta penso dall'87 o giù di lì, insomma, no. Senza birra? Sono venuto senza birra. Ho bevuto l'acqua, ho comprato una bottiglia d'acqua e ho bevuto l'acqua. E una volta la trasmissione. E giustamente dall'87 a oggi quanti anni sono passati? 26. Mamma mia. 88 forse, dai, 25 anni. In 25 anni una puntata senza e giustamente ti sei sentito in dovere di chiedere scusa a priori. Esattamente. È stata una puntata sottotono. Sottotono, assolutamente. Va bene, dai, bella così, noi ce ne andiamo sotto la Nuova Comunista. La programmazione di Radio Onda Rossa di domani continua come al solito con adesso la compagnia di Gazzara, dopo la lettura delle prime pagine del giornale, la segna stampa, gli aggiornamenti della città e del resto del mondo, alle 13 il GR, alle 13.30 lo spazio di comunicazione, visionari e via tutto il palinsesto della radio del giovedì. Quindi non lasciate queste frequenze e resistete, che tocca farlo, dai. Bella così, ciao. Ce ne andiamo sotto la Nuova Comunista, guarda caso, International No Conspiracy svedesi. Tonight.